Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. Buongiorno, buongiorno, 133esima puntata di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. Oggi è domenica 8 dicembre 2013 e la redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Valentina Reggioli, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. Per la parte tecnica ringraziamo la collaborazione preziosa di Francesco Azzurri e per la selezione musicale Giona Vinti e Lorenzo Ranfagni. Nella puntata di oggi salta la rubrica Visti da vicino, attraverso la quale solitamente incontriamo animali considerandoli come individui. Per Animal House, la rubrica di attualità, tratteremo della pesante controffensiva di quella parte del mondo scientifico che è a favore della vivisezione. Inoltre, la nostra corrispondente da Milano, Roberta Marino, ci proporrà un servizio che ha registrato in un circolo ARCI milanese dove vengono organizzati deliziosi brunch vegani la domenica mattina. Per la rubrica letteraria Perle agli umani, Lorenzo Guadagnucci recensisce per noi il libro In paradiso ad attenderci, del delicato e originale teologo Paolo De Benedetti. Per la rubrica Il pasto gentile, Gabriele Palloni, il nostro chef cruelty free, stavolta invece di somministrarci una ricetta, ci parlerà del lancio della sua iniziativa Uno chef vegan a domicilio. Formula che prevede di affittare lo chef per organizzare sontuose cene in casa propria, al netto di ogni sfruttamento e schiavitù. Infine, anche questa settimana, non mancherà l'ormai consueta rubrica Tigri di carta, la nostra rassegna stampa a tema animalista e antispecista, unica nel suo genere. Animal House. Notizie, interviste, attualità. Sono al telefono con il professor Gianni Tamino, nostro interlocutore per la questione della vivisezione, della direttiva europea recentemente approvata con alcune piccole modifiche sulle quali una certa parte del mondo scientifico, cioè quello favorevole alla vivisezione, si sta accanendo, sostenendo che non sarà più possibile fare ricerca in Italia. Intanto una premessa da sillabario. Il mondo scientifico dice non chiamatela vivisezione. Secondo loro quel termine è improprio e preferiscono parlare di sperimentazione. Gianni, ci puoi spiegare finalmente il vero significato di questa parola e in quali casi è corretto il suo utilizzo? Qualunque dizionario italiano, inglese o francese, qualunque enciclopedia alla voce vivisezione o vivisection o qualunque altro sia il termine, si trova questo termine, si riferisce in generale tutta la sperimentazione sugli animali, perché non è soltanto il concetto di sezionare un individuo vivente, ma è proprio il concetto più esteso di utilizzare in vivo qualche cosa, come un farmaco, come quindi iniettare, eccetera, che altera l'organismo stesso, proprio perché si vuole alterarlo per capire cosa succede. Quindi il concetto di vivisezione in tutte le lingue va interpretato alla luce poi di quello che appunto dicono dizionari e enciclopedie in questo modo. Non so se hai seguito i dibattiti, a parte il fatto che mi sembrano tardivi dal momento che ormai la direttiva è stata recepita con questi cambiamenti, per cui ci si chiede come mai si stiano muovendo così in ritardo, queste manifestazioni le potevano fare prima. E poi proprio loro che sostenevano che vivisezione non fosse la parola giusta per definire quello che facevano, sono lì che difendono gli xenotrapianti. Come si fa a non pensare che uno xenotrapianto non sia vivisezione? Perché non si può mettere organi, se non prelevandoli da un animale ancora vivo, per metterli in un animale ancora vivo. Quella è evidente vivisezione. Non si capisce che motivo c'è di porsi il problema, dato che il Comitato Nazionale di Bioetica già e il Comitato Nazionale per la Sicurezza in passato avevano già indicato come non ragionevole da praticare nessuna forma di xenotrapianto, perché lo xenotrapianto finalizzato a sperimentare su animali la sostituzione di un organo, per esempio di maiale in una scimmia, era finalizzato per poi pensare di mettere organi di maiali nell'uomo. Questo è assolutamente privo di senso. Ci sono rischi e pericoli rilevanti per la salute umana solo a pensarlo, perché c'è il rischio di trasferimento di virus dai maiali all'uomo, ma in questo caso dai maiali alla scimmia, quindi creando anche nuove forme di virus, perché in questi passaggi i virus mutano e si adattano, che sono estremamente pericolosi. In più, ogni volta che si fa un trapianto, cellule dell'animale da cui proviene l'organo si diffondono nel nuovo animale, che sia la scimmia o che sia l'uomo. Comunque si creano problemi anche etici, oltre che di rischio sanitario, rilevante, motivo per cui già da tempo si è detto che i xenotrapianti non hanno senso. Non capisco quali siano i problemi che pongono, se non quello di far credere che c'è uno stravolgimento tale per cui non si può più fare sperimentazione sugli animali. Magari fosse così, non è purtroppo assolutamente così, tanto è vero che a livello proprio europeo alcuni di noi hanno preso l'iniziativa di raccogliere delle firme per porre al bando questa barbara e inutile pratica di usare gli animali per la sperimentazione, in modo da ottenerne dati da utilizzare sull'uomo. Questi dati non hanno nessun valore. L'iniziativa Stop Vivisection, a distanza di oltre un anno, ha raggiunto l'obiettivo, sono stati raccolti più di 1 milione di firme e grazie a questo cercheremo di andare a livello proprio europeo per porre la questione non di una nuova direttiva che regoli la sperimentazione, ma per dire basta con qualche cosa che, oltre che inammissibile per certi aspetti etici nei confronti del rapporto uomo-animali, ma soprattutto pericoloso per l'uomo, perché la sperimentazione sull'animale non dà nessun risultato utile a quello che è la conoscenza della salute e dei problemi medici che riguardano l'uomo, ma costituisce un alibi perché poi siano gli uomini a sperimentare sia prodotti farmacologici sia sostanze chimiche con effetti tutt'altro che piacevoli. Però sempre quel mondo scientifico sostiene che senza gli xenotrapianti si fermerà la ricerca sui tumori e quindi non ci saranno passi avanti nella cura. L'altro mondo scientifico, quello contrario alla vivisezione, favorevole ai metodi alternativi, invece che posizione ha rispetto a questo? Allora, lo xenotrapianto non serve dal punto di vista terapeutico, nel senso che non si può neanche lontanamente immaginare di utilizzare organi di animali per metterli nel corpo umano. Ma l'uso di trapianti di organi da un animale a un altro, quale tipo di effetto positivo può avere per studiare i tumori umani? Non si capisce proprio. È soltanto invece un accanimento nel voler fare cose che esorbitano da quello che è anche il buon senso per cercare di capire qualche cosa che non serve e che serve solo a pubblicazioni. A Padova purtroppo fanno esperimenti di questo genere, sul giornale è uscito perfino raggiunto il record di sopravvivenza in una scimmia in cui era stato inserito un cuore di maiale. Record di sopravvivenza, si trattava di poche settimane. Fanno gli esperimenti per ottenere un giorno in più di sopravvivenza con atroci sofferenze di questa povera scimmia? Questa è la logica. Siamo a Milano, all'Arciturro, dove oggi Valentina e Brunella hanno organizzato una loro nuova edizione del Brunch Vegan, che da un po' di tempo stanno organizzando sempre qui in questa sede. Oggi il menù come era composto? Allora, come sempre c'è una parte di buffet, dolce salato e poi una portata al tavolo. Oggi nello specifico abbiamo provato un po' di cose nuove, come i muffin salati a olive, olive pomodorini, poi peperoni, e abbiamo provato a fare una fari frittata con cipolla, che devo dire è stato un grande successo, poi pizze, focacce sempre fatte in casa e insalatone. Poi Brunella, cos'altro c'era? Aiutami. Invece la parte dei dolci, dove c'era una torta senza glutine con farina di mais, riso alle pesche, dei dolcini, dei mini tartufini al cocco e mandorle, con alcuni al cacao e alcuni invece bianchi, e frutta fresca, sempre di stagione, quindi abbiamo scelto l'uva per oggi, e poi le nostre tisane, caffè e succhi vari. E anche un piatto misto ogni volta proponete? Sì, il piatto misto invece al tavolo, che lo prepariamo sul momento, che viene servito ad ognuno. Oggi era composto da un riso basmati profumato al limone e semi di papavero, degli meravigliosi spaghetti di zucchine al pesto di rucola crudisti, e vorrei anche aggiungere che la rucola era tutta del mio orto, e poi dei super favolosissimi hamburgerini di ceci con la maionese vegana, che è, diciamo, una grande specialità della Valentina. Grazie. Era super buona, infatti. Ci volete raccontare un po' com'è nata questa idea del brunch vegan, che a Milano è una novità? Allora, io da un paio d'anni con amici ho iniziato a organizzare prevalentemente delle cene sotto il nome di Food of Love. Abbiamo trovato negli Arci sempre le porte aperte, sono stati tutti molto interessati, quindi volevamo sperimentare qualcosa di nuovo, e abbiamo quindi deciso io e Brunella di provare questa formula del brunch. Appunto, non essendoci altri posti che lo proponevano, ci sembrava una cosa interessante. In più dava modo di provare, insomma, portate diverse dalla classica cena, del classico pranzo, con appunto il buffet dolce salato, e si possono assaggiare tante diverse alternative. Hanno partecipato solo persone vegan o avete notato anche interesse da altre persone? Ma allora, diciamo che abbiamo uno zoccolo duro di clienti che, insomma, ormai affezionati soprattutto di Food of Love, che sono vegani, però devo dire che riusciamo a coinvolgere anche persone che vengono invece per la prima volta, un po' perché conoscenti, un po' perché amici, un po' perché incuriositi, anche clienti stesso dell'Arci che magari leggendo l'appuntamento domenicale si sono diciamo incuriositi e sono venuti a provare, quindi direi che in realtà è una clientela abbastanza varia. Le risposte sono state, direi, tutte positive, no? Non si è lamentato nessuno finora, sono tutti vivi, quindi ma voi Allora, sono dei semplicissimi muffin al cioccolato. L'ho provata più volte e posso assicurare che la resa è ottima. Allora, gli ingredienti sono 220 g di latte di soia, meglio vanigliato, un cucchiaino di aceto di mele, una bustina di vaniglia, 70 g di olio di semi o di riso, 100 g di zucchero di canna, 220 g di farina, un cucchiaio di lievito, 70 g di cacao amaro. Il procedimento è molto semplice: si uniscono tutti gli ingredienti liquidi e si lasciano riposare per 5-10 minuti. Dopodiché si aggiunge la farina, il cacao amaro e il lievito. Si mescola per poco tempo, giusto per non far formare i grumi, perché l'impasto dei muffin meno viene lavorato e più renderà meglio. Quando si è arrivati a una consistenza abbastanza morbida dell'impasto, si possono mettere nelle formine. Il tempo di cottura è tra i 20 e i 30 minuti, dipende da forno a forno, e la temperatura sono 180 gradi. Io che li ho provati, e i bambini che li hanno provati dicono che sono buonissimi. Si possono guarnire questi muffin con una glassa fatta di zucchero a velo e margarina. La proporzione, diciamo, è non so, un 100 g di zucchero a velo e un 70 g di margarina morbida. Si possono colorare con dei coloranti naturali come il mirtillo, la fragola. Una volta messa questa ganache proprio nella sac à poche, si possono creare dei decorini che, insomma, anche per le feste di compleanno dei bambini, devo dire che sono più che adatti. Valentina, restiamo animali? Restiamo animali. Brunella, restiamo animali? Assolutamente restiamo animali. Shall we gather by the river for to hear the lovely thunder crash? Perle agli umani, letteratura per la liberazione. Oggi vogliamo parlarvi di un libro uscito da poco. Si intitola In paradiso ad attenderci. Il pensiero, l'impegno e i ricordi del teologo che ama gli animali. È un libro intervista pubblicato dall'editore Sonda con Paolo De Benedetti a cura di Maurizio Scordino. Paolo De Benedetti è un teologo, un biblista fra i più conosciuti in Italia ed è forse l'unico fra i pensatori che fanno riferimento alla Chiesa Cattolica ad avere trattato, nello sviluppo del suo pensiero, la questione animale. Un titolo molto noto della sua produzione è proprio Teologia degli animali, uscito nel 2007. Paolo De Benedetti è un personaggio sicuramente singolare. Di religione ebraica si è poi avvicinato al cristianesimo e al cattolicesimo, sviluppando un proprio filone di pensiero. In questo libro, con Maurizio Scordino, Paolo De Benedetti ripercorre la sua vita, la sua esperienza, la formazione anche del suo pensiero. È un libro di 140 pagine che affronta quindi numerosi temi e offre per una lettura animalista degli spunti molto preziosi per comprendere il ruolo che giocano le religioni nel determinare la condizione animale nella nostra società e anche le vie di un possibile cambiamento. De Benedetti infatti non esita a rintracciare nella tradizione delle religioni monoteiste e nei testi biblici riferimenti che possono essere interpretati come un riconoscimento degli animali come destinatari del messaggio di salvezza del pensiero religioso. De Benedetti non esita quindi a dire che gli animali avranno a loro volta la possibilità di resurrezione. È interessante in questo libro anche il riferimento, potremmo dire olistico, che De Benedetti fa rispetto alle forme di vita vegetale, addirittura minerale, e quindi proponendo un pensiero che potremmo addirittura definire di teologia ambientalista, che ci sembra decisamente proiettato nel futuro e che porta alla memoria anche lo sviluppo del pensiero non violento in Aldo Capitini. Fra i passaggi più netti e più coraggiosi di questo libro è la parte nella quale De Benedetti spiega perché non abbia mai avuto timore ad accostare la condizione animale alla Shoah, non all'olocausto precisa, perché olocausto è un termine che ha a che fare con il sacrificio, con quindi una dimensione religiosa che non apparteneva evidentemente allo sterminio praticato sotto la Germania nazista. L'accostamento tra lo sterminio degli animali e la Shoah, dice De Benedetti, è un accostamento che ho fatto in più di un'occasione, a rischio di passare per irriverente. Ma non ho remore nell'affermare che il medesimo Dio, posto così severamente in discussione dal disastro della Shoah, corre lo stesso pericolo di credibilità a causa della sofferenza ingiusta che patiscono gli animali. De Benedetti del resto riconosce il ritardo della cultura, della filosofia, della teologia cattolica rispetto alla condizione animale e non si fa illusioni sulla possibilità di arrivare a un cambiamento radicale nell'ambito della Chiesa cattolica. Su questo punto non manca anche di ricordare quanto pesino gli interessi economici nel determinare o nell'impedire cambiamenti radicali nelle prese di posizione. In Paradiso da attenderci è comunque anche un resoconto di un'esperienza di vita, di una relazione con gli animali che ha sicuramente contribuito anche allo sviluppo del pensiero, e questo è un elemento che ci teniamo a sottolineare perché siamo convinti, e lo facciamo in questa trasmissione con la nostra rubrica Visti da vicino, l'incontro con gli animali, che proprio l'esperienza di contatto, la relazione con gli animali non umani sia la premessa anche per un cambiamento dei rapporti sociali, della considerazione, delle dinamiche che intercorrono tra gli animali umani e quelli non umani. Perciò abbiamo scelto di leggervi un brano da questo libro che riguarda l'esperienza, o perlomeno un pezzetto dell'esperienza avuta nella sua vita da Paolo De Benedetti con gli animali non umani. Papà aveva ceduto alla sua passione per i cani, portando a casa un piccolo di cocker, Cino, dal legame fortissimo col nonno materno, al quale, mostrando i denti con fare festoso, ogni volta che lo vedeva sembrava proprio sorridere. Cino morì in anni successivi, con grande strazio da parte nostra, di cimurro. Poi, durante la guerra, alcuni muratori che eseguivano dei lavori in una torretta in cima alla casa trovarono in un nido di storni un uccellino ancora in plume, che noi abbiamo subito nutrito e battezzato Picotto, del quale conserviamo un ritratto fatto da Maria, mia sorella. Picotto divenne immediatamente parte della famiglia, fin troppo parte. Abitava infatti in una gabbia di vimini rigorosamente aperta e posta, come si conviene, s'udì uno sgabello in cucina, un appartamento privato a tutti gli effetti, dove oltre a dormire e ripararsi dal freddo, cantava e strillava a squarciagola. Divenne un despota, il vero e proprio padrone di casa. A pranzo, Picotto esigeva che avvicinassimo la gabbia al tavolo, affinché potesse assaggiare ogni nostra pietanza. In nostra assenza, invece, se la tavola era apparecchiata, riusciva ad aprire la formaggera e, in un attimo, vuotarne il contenuto. Se invece sentiva correre qualcuno richiamato dal rumore, Picotto rientrava dentro la gabbia in un lampo, ostentando assoluta indifferenza. Alla sera, quando noi studiavamo e nostra madre cuciva, Picotto arrivava dalla cucina e bussava alla porta del salotto, dove avevo predisposto un piccolo trespolo costruito da me e sul quale, pur sonnecchiando, ci teneva compagnia. Ben presto, inoltre, lo stornello aveva imparato a parlare e, soprattutto nel sonno, ci deliziava delle sue abilità. «Sei piccolo tu», era il suo tormentone, come diremmo oggi. Allo stesso modo impartiva ordine a una piccata domestica, Fiorina, cui intimava spesso dei perentori «Vieni qua subito, tu!». Più di una volta trovammo nostro padre intento a persuadere qualcuno dei pazienti che visitava nello studio di casa del fatto che le voci provenienti dal giardino in cui non era passato nessuno in realtà fossero di qualcuno. Membro dominante del nostro serraglio domestico, Picotto era temutissimo dalla gatta. La raggiungeva ovunque stesse mangiando e la colpiva sul naso. La poverina si scansava e lui, tronfio e arrogante, si poneva sulla ciotola del cibo, servendosi senza ritegno. In pratica, era il vero proprietario dell'appartamento, presso il quale consentiva a tutti noi di convivere. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Uno chef vegan a domicilio, e questa la formula con cui si propone di lavorare il nostro Gabriele Palloni dopo anni di lavoro in ristoranti e locali fiorentini. Gabriele ci ha garantito che dal punto di vista fiscale è perfettamente in regola. E adesso gli chiediamo di raccontarci quali sono gli aspetti salienti di questa sua proposta così speciale. Intanto possiamo dire che cominciamo questa puntata come consigli per gli acquisti. Più che un'idea è stata anche una necessità, perché come alcuni sapranno e tu già sai, ho chiuso il locale che avevo. E però la voglia di cucinare, di sperimentare c'è sempre, soprattutto di sperimentare appunto la cucina vegana e poterla diffondere. Un modo che mi è sembrato divertente per me, oltre che per gli altri, era quello di andare a cucinare in casa delle persone. Questo perché mi consente anche di parlare con la gente, non il rapporto che solitamente ai cuochi viene negato perché stiamo reclusi in cucina, mentre cucinare in casa con le persone è molto interessante proprio perché si crea questo dialogo. La gente ti vede cucinare, ti fa domande, non solo mentre mangia ma anche mentre prepari. Semplicemente uno mette a disposizione casa sua, magari se l'apparecchia come vuole, invita amici o anche in famiglia, insomma. Diciamo minimo per un 4-6 persone, anche perché diventa una cena un pochino più interessante. Le persone invitano amici a questa cena, durante la cena oltre che a preparare io anche metto a posto e pulisco i piatti che le persone fanno e servo in tavola. Il servizio completo è come essere al ristorante, però sei in casa tua. La spesa chi la fa? La spesa la faccio la mattina, poi se le persone solitamente cenano verso le 8:30, io arrivo a casa intorno alle 15:30, massimo le 16, dipende un po' dal menù che stabiliamo insieme e cucino insieme a loro. Si stabilisce il menù insieme? Sì, io faccio delle proposte, ma le persone possono chiedere cose o stabiliamo più o meno insieme lo stile della cena. Ti sono capitati solo vegani o anche vegetariani, onnivori? Per ora nessun vegano convinto. Grande. Diciamo. Infatti questo è l'altro aspetto molto interessante. Persone, diciamo, curiose sicuramente, perché io non propongo tutto, propongo solo cucina vegana. Quindi sono chef vegan a domicilio. E la cosa interessante è proprio quello, il fatto che persone non vegane si avvicinano a questo tipo di cucina e spesso si ricredono. È capitato spesso che magari, vabbè, chi metteva a disposizione casa, chi aveva l'idea della cena, era un simpatizzante. Però molti ospiti erano titubanti, molto scettici. E sono stati quasi sempre quelli più convinti alla fine. che si sono entusiasmati di più, insomma. Sì, avevano il preconcetto che la cucina vegana sono due verdurine lesse, triste, bollite, tristi, poco colorata, senza sapore. Esatto, e quello che stupisce di più sono i dolci, perché appunto è difficile nella nostra cultura immaginarsi un dolce che non abbia latte, uova, burro. E che solitamente è pesante, mentre alla fine scoprono un sapore molto delicato, buono, particolare. E la cosa forse che mi rende più felice è il fatto che una cena sostanziosa, perché comunque io propongo un antipasto, un primo, un secondo contorno e dolce, e a volte anche un entrée, una mise en bouche, e tutto questo è molto molto digeribile, quindi non se ne vanno, anzi non me ne vado via io, sazi ma non appesantiti. Per i vini come vi siete regolati di solito? Allora, io propongo come accompagnamento tre possibilità: o un vino rosso o bianco, biologico, dipende appunto dal menù, oppure pasteggiare con una tisana o una bevanda energetica, sempre un infuso, solito a base di fiori di Carcadè. Quanto viene a costare? Come sempre la mia filosofia rimane quella: cercare di offrire una cosa particolare, ben fatta, curata, però a prezzi contenuti. Quindi il costo è quello di una cena fuori, forse anche meno. Sono 20 euro a persona per un minimo di 4 persone. Se è una cena intima di 2 persone, chiaramente qualcosina in più, diciamo 25-30 euro. Non è una cifra alta, decisamente ormai queste cifre qui si spendono anche in pizzeria. Quindi soprattutto se è incluso la bevanda. Sì, sì, è incluso tutto. Quindi poi anche infatti, il vino per chi vuole il vino. Infatti questo forse va specificato. Uno si deve immaginare come andare al ristorante, però invece di uscire di casa è il ristorante che entra in casa sua. Ti hanno chiesto di sederti a tavola, perché è imbarazzante forse in casa avere una persona in piedi. Sembra di parlare con la mia mamma, che sempre fa, ma te non mangi? Invece io mangio. Le mamme, soprattutto delle persone vegane, sono sempre preoccupate. Spesso mi chiedono, ma tu non mangi con noi? Quando vai al ristorante non è che il cuoco, il cameriere si siede e mangia insieme a te. Io sono lì, parlo, spiego, se mi vengono fatte domande, se si preferisce parlare. Ecco, quindi di solito tu mangi prima. Ma io solitamente quando cucino, specialmente molte cose o per tante persone, mi passa l'appetito. Sì, è un classico. Quando torno a casa. Benissimo, quindi cuoco a domicilio per le persone che si fossero incuriosite e che volessero contattarti. Allora, possono mandarmi una mail a gabriele@scibarius.it, telefonarmi, il numero poi lo trovate sulla mia pagina Facebook, Gabriele Palloni. Eventualmente c'è sempre il nostro blog, il nostro contatto, restiamoanimali@gmail.com. Grazie Gabriele. Grazie a te Camilla. Ti affitterò al più presto. Bene. Tigri di carta. Rassegna stampa altro animalista. Anche questa settimana sulla stampa italiana la questione animale tiene banco sotto forma di protesta da parte di molti ricercatori e scienziati per il testo di legge con il quale è stata recepita in Italia la direttiva europea sulla sperimentazione animale. Ne abbiamo già parlato con Gianni Tamino poco fa, e allora conviene capire quale sia il tenore della discussione in corso sui quotidiani. Facciamo riferimento a due articoli, a due testate. Sulla Repubblica del 28 novembre, una ampia sezione delle pagine culturali dedicata alla ripresa di un articolo di una rivista internazionale, Nature Neuroscience, che ha lanciato una sorta di allarme, sostenendo che in Italia vengono compromesse le condizioni per lo sviluppo della ricerca scientifica a causa sia del taglio dei fondi pubblici sia appunto della legge che recepisce la direttiva europea sulla sperimentazione animale. Su quest'ultimo punto ecco l'articolo di Elena Dusi, Esperimenti sugli animali è muro contro muro è il titolo, scambi di accuse e anche un finto cimitero con le foto di Beagle. Elena Dusi in questo articolo, dobbiamo dire, che dà conto di tutte le posizioni e le iniziative, riporta quindi gli elementi principali di critica da parte di scienziati e ricercatori, riporta poi le iniziative del movimento animalista e in particolare quella di Animal Amnesty, che ha allestito, si legge, un finto cimitero con le foto di un beagle su ogni croce. Si riporta poi la posizione dell'associazione radicale Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, una delle organizzazioni più schierate in favore della sperimentazione animale. La segretaria Filomena Gallo dice: di fronte alle eccessive restrizioni della legge, presenteremo un ricorso alla Corte Costituzionale. Si cita poi anche un sondaggio dell'Eurispes che, scrive Dusi, chiede ogni anno agli italiani come si dichiara a proposito della vivisezione, ovvero la sperimentazione sugli animali vivi. Nel 2013 l'87,3% delle persone si è detto contraria, in aumento rispetto all'anno precedente. Un articolo quindi che potremmo definire di cronaca, mentre la polemica divampa sul domenicale del Sole 24 Ore, che già alcune settimane fa aveva riportato un veemente articolo contro la legge sulla sperimentazione animale firmato da Gilberto Corbellini e Elisabetta Deiana. Il Sole torna sul tema pubblicando un botta e risposta. C'è la lettera della dottoressa Luisa Mirone che si lamenta del tono e del contenuto dell'articolo di Corbellini e Deiana. La veemenza con cui i firmatari dell'articolo trattano l'argomento mi fa tornare alla mente la levata di scudi a cui quasi costantemente si è assistito di fronte alle novità che hanno rivoluzionato il mondo scientifico nel corso dei secoli. Un esempio per tutti: il dottor Sommervels, che un paio di secoli or sono per primo identificò nell'uso di non lavarsi le mani prima di assistere a una partoriente la fonte di mortali infezioni, venne ostracizzato dalla comunità scientifica, che riteneva indegno e contrario a consuetudini radicate da secoli il solo pensare di lavarsi le mani. E in ambiti diversi della medicina, che dire di Galileo? Ciò che è consuetudine è sempre stato per l'uomo vero e affidabile, e le mutazioni, vere promotrici del progresso scientifico, sono state spesso additate quali pericolose e dannose. Fra i fanatici, prosegue Luisa Mirone, aggettivo che ricorre nell'articolo di cui ha l'oggetto e con cui gli autori omaggiano gli animalisti, vi sono sicuramente ricercatori, medici, veterinari, persone studiosi in grado di sostenere le proprie opinioni con cognizione di causa. E poi Luisa Mirone porta esempi tratti da ricerche scientifiche di sperimentazione alternativa rispetto a quella condotta sugli animali. Il Sole dà poi ovviamente la parola, quindi un diritto di replica, potremmo dire così, a Gilberto Corbellini ed Elisabetta Deiana, che non sembrano affatto correggere il tiro. In un passaggio Corbellini e Deiana scrivono: «È singolare che si accusi proprio chi ha sviluppato e usa nuovi metodi di non essere aperto al nuovo, o che si ricordino le vicende di Galileo e di Sommervels per avallare a prescindere qualunque cosa qualcuno crede sia nuova. Si dà il caso che in merito alla sperimentazione animale chi è chiuso dogmaticamente alle novità e prospettive di miglioramenti futuri sono proprio gli animalisti più fanatici», e qui si ricade nell'invettiva. Ribadiamo quindi che non secondo la nostra opinione, ma nei fatti, i metodi alternativi sono già usati e sviluppati nella maggioranza degli istituti di ricerca. La ricerca sperimentale fa uso di topi, ma anche di strumenti bioinformatici, genetica, lieviti, cellule in cultura e sistemi di genomica e proteomica. L'uso dei roditori, al di là degli aspetti etici, comporta dei costi molto alti e vi si ricorre solo quando è indispensabile, e così via. E poi Corbellini e Deiana, che pure da una parte conducono argomentazioni, tra virgolette, scientifiche, verso la fine del loro articolo cadono nel tipico discorso da uomo della strada, sulla cui scientificità ci permettiamo di dubitare. Scrivono così: «Cosa direbbero? Ma lo sappiamo. Le persone con un figlio ammalato di leucemia o portatore di una malattia genetica grave, se comunicassimo loro che la ricerca di una terapia efficace sarà rimandata al momento in cui si potrà riprodurre in vitro la malattia?» E con questo Corbellini e Deiana sembrano chiudere la questione. Un'ultima piccola segnalazione dal Corriere della Sera, affinché non ci dimentichiamo mai che gli animali, per i grandi quotidiani, sono soprattutto fonte di notizie curiose, un po' patetiche, che cercano magari di stimolare la compassione dei lettori, senza indurre in implicazioni, riflessioni particolarmente approfondite. Ed ecco quindi la foto che suscita tenerezza, a pagina 23, di sabato 30 novembre, con due leoncini in posa con i genitori. Si tratta immancabilmente di una foto di famiglia ripresa in uno zoo, un luogo quindi di segregazione di animali e di esclusione dalla possibilità di condurre un'esistenza secondo le proprie naturali inclinazioni. In questo caso si tratta dello zoo di Novosibirsk, la terza città russa per numero di abitanti. Con Tigri di Carta ci risentiamo fra una settimana. Un altro appuntamento col ciclo Apericena sulla questione animale. Stavolta si tratta del quinto incontro, organizzato, come gli altri, dalla Casa del Popolo di Settignano insieme alla redazione della trasmissione Restiamo Animali. L'appuntamento è per mercoledì 18 dicembre alla Casa del Popolo in via San Romano 1 a Settignano. La serata inizierà alle ore 20 con la cena cruelty free su prenotazione a soli 10 euro e proseguirà dopo cena con un incontro con Massimo Filippi. Molti di voi lo conosceranno già, oltre a essere un prestigioso neuroscienziato è anche filosofo dell'antispecismo e ha scritto recentemente con Filippo Trasatti il libro Crimini in tempo di pace, la questione animale e l'ideologia del dominio, uscito nel 2013 per i tipi di Eleutera. Il nostro Lorenzo Guadagnucci intervisterà Massimo Filippi sui contenuti di questo libro, quindi chi di voi lo avesse letto, si fosse incuriosito, chi di voi non l'avesse letto e volesse sapere di che cosa parla, questa è l'occasione per conoscere questo testo ed eventualmente anche per acquistarlo. Come al solito chiediamo la prenotazione, così evitiamo gli sprechi. Potete scrivere a restiamoanimali@gmail.com o telefonare alla Casa del Popolo durante l'orario di apertura allo 055 697 007. Tutti questi dettagli sono già nel nostro blog restiamoanimali.wordpress.com. Fotografie, ricette, interviste, video satirici, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate nel nostro blog restiamoanimali.wordpress.com. Info e suggerimenti a restiamoanimali@controradio.it. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it.